Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Monica Maurer per parlare del tour in Italia del documentario The Truth Lost at Sea di Rifa Audet, che sarà all'AMOD, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, giovedì 21 novembre 2019, proiezione incontro con l'autore. Monica, ben trovata. Grazie, ben trovata io, sempre un piacere. C'è stato Rifa ospite a Onda Rossa la scorsa settimana per parlare dell'inizio del tour, ora torna a Roma. Descriviamo un po' questo lavoro a chi ci ascolta. The Truth Lost at Sea, cioè la verità che è persa nel mare, è un reportage sulla missione della Mavi Marmara, che era la prima Freedom Flottiglia 10 anni fa, cioè a maggio prossimo saranno 10 anni, dopo Piombo Fuso, cioè l'attacco su Gaza nel 2009, c'era un gruppo di attivisti, internazionalisti, giornalisti, artisti, politici, parlamentari, che volevano rompere l'assedio che Israele ha messo su Gaza e hanno caricato tonnellate di aiuti umanitari sulla nave Mavi Marmara, che partiva bandiera turca in questo caso, per rompere l'assedio e portare questi aiuti a Gaza. È partito in un'atmosfera festiva, pieno di compassione, di gioia di poter mostrare alla popolazione disastrata a casa che non sono soli, e invece la nave è stata intercettata secondo un piano sicuramente minuziosamente già preparato prima delle forze speciali della Marina israeliana, che non solo l'hanno bloccata ma hanno sparato sulle persone sulla nave e ne è uscito un massacro, erano più di 10 morti e dozzine di passeggeri feriti, alcuni in modo anche molto grave. Poi hanno bloccato la nave, hanno arrestato molti dei passeggeri della flottiglia e hanno soprattutto messo in moto tutta una campagna di propaganda che questi siano terroristi, insomma, malgrado che c'erano monache, a religiosi, a giornalisti, parlamentari, eccetera, come ho detto, cioè a cercare a criminalizzare quelli che erano poi in fondo le vittime, no? E quindi per questo la verità perso nel mare. Allora il film, che doveva documentare l'arrivo di questi aiuti umanitari in Gaza, alla fine è diventato una cronica di questo massacro e della manipolazione della verità. Questo mi pare proprio in un momento come questo, un lungo momento dobbiamo dire, che ancora una volta, no, questi, la notizia degli ultimi 2-3 giorni, che insediamenti israeliani non vengono più considerati da israeliani e dagli americani solo secondo la legge internazionale illegali, è un altro esempio della completa disattenzione alla legislazione internazionale, no? Sì. E quindi anche se a 10 anni di distanza, un importante documento per denunciare questa continua violazione delle leggi internazionali, perché chiaramente secondo tutte le convenzioni internazionali, soprattutto anche la legge del mare, questo attacco è completamente il contrario. E quindi ci pare, anche se sono 10 anni, importante di approfittare della presenza di Rifat Audet, un regista di origine palestinese, che è venuto in Italia grazie a un impegno del gruppo NUR, che è la luce, di studenti di Ca' Foscari di Venezia, e poi ha fatto questo tour di cui avete già parlato. Quindi è un momento per ripristinare la verità. Ci sarà anche il regista che ci ha detto che comunque il processo per pirateria internazionale è ancora in ballo. Ah, questo è un altro scandalo, sì, perché la Corte Penale Internazionale, a cui chiaramente le vittime tutti insieme in una specie di class action si sono rivolti, ha rifiutato finora a procedere contro Israele, e proprio il prossimo 2 dicembre il procuratore della Corte Penale Internazionale deve rispondere sul fatto che finora non ha incriminato Israele per questa flagrante violazione della legge internazionale. Ricordiamo l'appuntamento a Roma, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, giovedì 21 novembre 2019, con il documentario The Truth Lost at Sea, con la presenza del regista Rifat Audeh. Alle 18, forse conviene anche magari prenotarsi, perché è a esaurimento posti, e sicuramente sarà molto interessante a confrontarsi col film con Rifat Audeh, che è uno che si impegna anche a monitorare le notizie sui media. Poi siamo anche sulla pagina Facebook del Cineforum Palestina. Grazie. Ciao Monica. Grazie. Ciao Federico, grazie, ciao. Con Chiara di Visionaute per parlare dell'appuntamento a Roma, domenica 24 novembre 2019, al Cinema Aquila, con una selezione di film del Festival Sun Prefer Cake, a cura appunto di Visionaute e ci riguarda tutte. Chiara, ben trovata. Ciao, ben trovati a tutte e tutti. Raccontiamo come nasce questa iniziativa. Allora, l'iniziativa nasce perché, insomma, seguiamo il Festival di Sun Prefer Cake da un po' di anni, il Festival di Cinema Lesbico di Bologna, organizzato dall'Associazione Luchi Massa con la Direzione Artistica delle Comunicative. Ci interessava come spazio non soltanto di proiezioni di cinema lesbico, ma anche proprio come il cinema vissuto come momento di attivazione politica, perché è un momento di scambio, di incontro, di discussione, per ragionare anche su immaginari altri da quelli eteronormati a cui siamo abituati tutti quanti. E quindi, insomma, ci interessava di proporre un po' a Roma una selezione del lavoro incredibile che hanno fatto le compagne di Bologna, e quindi appunto faremo due proiezioni, una alle 6:40, che è una selezione di cortometraggi, vengono le comunicative giù e parleremo anche con loro di immaginario lesbico, di memoria, perché l'archivio, il festival di quest'anno dedicato al tema dell'archivio, quindi l'archivio delle nostre comunità. E poi faremo a seguire una seconda proiezione del film che ha vinto il festival, che è un documentario, si chiama The Rest I Make Up, molto interessante, un film bellissimo. Abbiamo organizzato tutto quanto questo insieme a Ci Riguarda Tutte, perché, diciamo, i soldi dei biglietti andranno, scuse le spese, per sostenere le spese del processo appunto dell'Aquila, delle compagne che sono state purtroppo condannate in primo grado per diffamazione contro l'avvocato Valentini, che è insomma l'avvocato che ha difeso Tuccia, lo stupratore, militare stupratore dell'Aquila. E quindi, ecco, insomma, ci sembrava, nell'idea di creare immaginari altri, il fatto di mettere insieme queste due cose potesse essere forte, diciamo, per mantenere, fare un ragionamento anche femminista, ovviamente, in questo ambito. Raccontiamo anche un po' più diffusamente del processo dell'Aquila. Innanzitutto invito tutti quanti a seguire il blog Ci Riguarda Tutte, noblog.org, mi pare, che sia l'indirizzo, dove c'è proprio in maniera specifica raccontata tutte quanta seguito degli eventi e delle udienze. In sostanza, praticamente, sono delle compagne che sono state accusate di diffamazione in una maniera anche abbastanza, se vogliamo, proprio ridicola, e perché non, diciamo, per aver, diciamo, diffamato, comunque chiamato Valentini per quello che è, in uno scambio all'interno di una mailing list anche chiusa, con uno scambio di parliamo di 12-13 persone. Ovviamente è, come dire, un'accusa, un invito a non partecipare politicamente ai processi di stupro. Valentini è una persona che all'interno del Tribunale dell'Aquila è molto conosciuta, quindi vabbè, immaginiamo il resto, quale cosa sia stato il processo. Quindi è stato un processo anche abbastanza politico, abbiamo seguito le varie udienze e anzi non ci aspettavamo una condanna, perché sembrava proprio che le accuse fossero qualcosa veramente di ridicolo. Rispetto al Sun Preserve Cake, raccontiamo anche un po' quelli che sono i lavori scelti. Allora abbiamo, diciamo, appunto la selezione dei corti, che è appunto molto molto interessante, passa, diciamo, un po' un lavoro attraverso l'età e la memoria anche in questo caso, perché i cortometraggi passano, adesso c'è Yuk, che è quello che ha vinto, che è un cortometraggio molto interessante, con una regia di diverse registe e registi insieme, che hanno seguito un collettivo di danzatrici performer che lavorano sulla sessualità per questionare appunto come vengono percepite la sessualità femminile, lesbica, queer dalle persone, quindi è molto interessante ed è fortissimo veramente. Ci sono altri lavori, per esempio sulla memoria, c'è un piccolo documentario di 30 minuti in cui si ritrova per caso un archivio di fotografie di una comunità lesbica americana e si capisce le relazioni di donne vissute dagli anni 30 agli anni 50, quindi si capiscono un po' le relazioni di questo mondo che sembra invisibile ma che di fatto non lo è. Fino a un lavoro molto interessante sulla gordofobia, quindi sui corpi differenti, sul grasso, eccetera. Quindi devo dire, le compagne di Bologna hanno fatto un lavoro di selezione veramente veramente interessante, sono uno dei lavori, uno meglio dell'altro. E poi il film appunto che proiettiamo, che è The Rest and Makeup, è la storia di Irene Corps, che è una sceneggiatrice del circuito off di Broadway. Incontra la regista del film in un momento in cui lei ha insegnato, è stata proprio una delle animatrici, i suoi lavori sono interessantissimi. Incontra questa regista che cercava in quel momento di fare un corso di sceneggiatura, nel momento in cui lei, diciamo, si comincia ad ammalare di demenza senile, è anziana e non può più scrivere, non riesce più a scrivere, però diciamo quello che è lei come artista e come insegnante, la sua esperienza di vita rimane comunque viva, forte, la passa, la regista la segue per 10 anni, diciamo, nella sua vecchiaia e anche nel suo perdere l'autonomia, però non perde il suo essere artista. È un film molto bello appunto sulla malattia, sull'invecchiare, per niente, diciamo, molto forte, per niente, diciamo, pietistico, ecco. Quindi questo è veramente una storia molto interessante, molto bello. In chiusura ci dai tutti i riferimenti per saperne di più sul programma? Sì, il programma, dunque, potete vederlo sul profilo, in questo momento abbiamo fatto un profilo Facebook Visionaute Collettivo, o anche su Ci Riguarda Tutto, cioè il programma Ci Riguarda Tutto, il nostro blog, o sul sito del Cinema Aquila. Comunque l'appuntamento è domenica 24 alle 6:40 la prima proiezione, la selezione dei corsi, e la seconda proiezione sarà a seguire intorno alle 8:30. Un saluto e un ringraziamento a Chiara di Visionaute per questo appuntamento di opere selezionate dal Sun Preserve Cake a Roma, al Nuovo Cinema Aquila. Chiara, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto. Con Giovanni Troilo, regista del film Frida, Viva la Vida, al cinema da lunedì 25 novembre 2019. Giovanni, ben trovato. Ben trovato e grazie per questa intervista. Lo descriviamo a chi ci ascolta? Assolutamente. Questo film documentario è un viaggio nel Messico perduto di Frida Kahlo. Il titolo originario era Le due Frida, no? Come il titolo di uno dei due dipinti più famosi di Frida, perché abbiamo lavorato moltissimo su questa idea del doppio che sostiene proprio la struttura narrativa. Abbiamo trovato spunto e conferma insieme di questa idea in un racconto nelle ultime pagine del diario di Frida, che è un vero e proprio, insomma, diario della sua agonia, del suo dolore. E questa reminiscenza infantile, in questo racconto, lei ci ricorda di questa sua amica immaginaria che provava a visitare attraverso un vetro della sua stanza, immaginando di scivolare sottoterra e di incontrare appunto questa sua amica con la quale, ecco, finalmente poteva trascorrere dei momenti di felicità. Questo senso di dualismo pervade un po' tutta l'opera di Frida Kahlo. Abbiamo tantissime doppie Frida ed è, insomma, su questo abbiamo basato il racconto. Cioè parliamo di due attrici, una che rappresenta la Frida sempre più immobile, sempre più costretta nel proprio corpo, l'altra che è libera invece di scivolare nel Messico alla scoperta del Messico originario, quello precolombiano e quello della tradizione, e di conquistare la libertà. Quindi abbiamo la Frida che soffre e la Frida dell'arte. Quella appunto del dolore e dell'arte è un binomio indissolubile in Frida Kahlo. Come era nato il progetto del film? L'idea proprio di fare un film evento cinema su Frida Kahlo è un'idea che nasce dalla produzione, da Nexo Digital e da Ballandi Art, che hanno intuito, insomma, per prima il potenziale al cinema di questo progetto. Io conoscevo Frida, come immagino la conosca mediamente, insomma, chiunque, quindi conoscevo abbastanza bene le sue opere, conoscevo i tratti più importanti della sua biografia. Però poter lavorare a questo film per un periodo così, insomma, lungo mi ha dato la possibilità non solo di conoscere l'artista, ma attraverso l'artista di conoscere e immergermi in un Messico che altrimenti non avrei potuto mai, insomma, incontrare. Ci hai detto del dualismo, come hai voluto strutturare il lavoro? Il dualismo, per esempio, è un tratto fondamentale dell'identità precolombiana, del racconto del Messico precolombiano, che è insito nella cultura azteca, nel culto delle divinità, che sono appunto dei e demoni insieme, che contengono entrambe le forze cosmiche. Questo ha in qualche modo investito appunto tutto quanto il film, che è strutturato intorno ad un modulo che si ripete più volte, creando un'escalation quasi da thriller. Il modulo è quello che vede il susseguirsi di vita, dolore, creazione di bellezza e di nuovo dolore. Che in realtà è l'incessante attività, l'incessante estenuante attività a cui si è sottoposta Frida in tutta la sua vita. Quindi innanzitutto il racconto di questa lunghissima sofferenza che ha generato quest'arte incredibile. Dallo studio del personaggio, della figura di Frida, che impressioni ne hai ricavato? Avere avuto appunto un accesso anche così esclusivo a Frida attraverso delle figure come quella della direttrice del museo Frida Kahlo, che è Casa Azul, la casa in cui, insomma, sostanzialmente è cresciuta e vissuto Frida Kahlo, ma anche di Cristina Kahlo, sua nipote, di Graziella Iturbide. Abbiamo avuto un accesso molto intimo a Frida, a volte soprattutto, come dire, nei fuoriscena ci si trovava intorno ad un tavolo a discutere, a parlare di Frida Kahlo, e il tono, ovviamente, soprattutto loro che la conoscevano così bene, era quello di amiche che, sedute ad un bar, parlano di un'amica che in quel momento non c'è. La stessa, insomma, Hilda Giulio Soto, la direttrice del museo Frida Kahlo, in qualche modo è una sorta di coinquilina involontaria di Frida Kahlo, abitando la sua casa da quasi 20 anni. Ci ha confessato qualcosa che ancora una volta purtroppo è successa fuori scena, ma che è stata strabiliante. Ci è capitato che in questa visita molto riservata che ci ha fatto fare a Casa Azul, ha scoperto all'interno di un micro mobiletto costruito dalla stessa Frida Kahlo, che a sua volta era una ricostruzione in miniatura di Casa Azul, all'interno di questo cassettino, di questo mini mobiletto, ha trovato un messaggino, un piccolo foglietto di carta scritto da Frida Kahlo con su scritto "Viva la Paz". L'idea è di una Frida che continua a giocare, continua a volersi far scoprire, e lo fa attraverso anche questi micro messaggi che sono scritti proprio ai posteri. In quante sale? Il film esce in moltissime sale, se non erro siamo a 367 sale in tutta Italia, esce in 3 giorni, quindi con la logica appunto dei film evento, che è una logica che sembra essere sempre più premiante. Frida, Viva la Vida di Giovanni Troilo, al cinema da lunedì 25 novembre 2019. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille a tutti. Grazie. con Federico Mancini di Videa per parlare del film Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky al cinema da lunedì 25 novembre 2019. Federico, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Lo descriviamo un po' brevemente a chi ci ascolta? Sì, chiaramente per chi non conosce Jodorowsky, questo è un film sicuramente molto importante nella sua filmografia, è un film visionario dell'89 che si rifà anche molto alla cinematografia italiana, come riferimento per, possiamo prendere ad esempio Fellini. È un film, appunto, come ho detto, è un film visionario, per cui ha una trama anche abbastanza complicata da raccontare, ma comunque parla di un ragazzo che rimane traumatizzato dall'uccisione della madre e quindi viene rinchiuso in un manicomio. A distanza di anni lui ha la visione della madre che viene a richiamarlo e quindi attua una sua vendetta fuggendo da questo manicomio praticamente. Tra l'altro è una produzione italiana. Sì, fu prodotto in realtà da Messico e Italia, e nel progetto c'era come sceneggiatore Roberto Leoni, Claudio Argento. È un film che sicuramente ha molto di italiano, e tra l'altro infatti è stato anche un film che ha avuto un discreto successo qua in Italia, ed è per questo anche che abbiamo pensato appunto a fare questa nuova riedizione a distanza di 30 anni, tra l'altro del film restaurato in 4K dal negativo originale, quindi preservando tutte le caratteristiche proprio originali del film. Oh, personalmente cosa hai amato di questo lavoro? Beh, i colori sono bellissimi, è un film estremamente colorato, ci sono dei personaggi molto particolari ma anche molto divertenti, è un film molto ricco, è un film girato molto bene, e le musiche, soprattutto le musiche, credo che chi vuole approfondire può fare un giro online, si trovano diverse reviews appunto sulla colonna sonora, una colonna sonora molto importante, tra l'altro curata anche da Boswell, che comunque è stato un musicista, ha lavorato molto nel cinema, quindi devo dire sì, sono questi, diciamo, gli elementi trainanti, ma soprattutto ecco l'impatto visivo e questi colori veramente molto molto vivi rendono un film molto psichedelico. Nonostante l'abbia visto molti anni fa, credo proprio in occasione dell'uscita, ricordo ancora che il film offre un bel colpo di scena. Sì, assolutamente sì, forse se lo pensiamo nel cinema di oggi potrebbe sembrare, non dico banale, ma forse già visto, però sì. Dobbiamo considerare appunto che un film di 30 anni fa effettivamente guida lo spettatore su un percorso per poi tirarlo un po', come dire, all'improvviso, ha un bel impatto il finale. Sì, è vero, hai ragione. In quante sale? Per adesso stiamo lavorando su circa una ventina di sale, ma come sai in questi casi è difficile avere una lista definitiva, la avremo penso 2-3 giorni prima dell'uscita, tra l'altro sulla nostra pagina Facebook pubblicheremo appunto tutta la lista delle sale, perché ci stanno già richiedendo in molti dove lo faranno, dove non lo faranno, e devo dire stiamo correndo abbastanza, ma credo intorno a una ventina di sale come prima uscita, poi vedremo anche un po' la dimensione, probabilmente sarà allargato poi nel tempo. Come è venuta fuori l'idea di una riedizione restaurata? Beh, come sai, l'idea è sempre stata un po' attenta a un cinema un po' di qualità. Secondo noi questo è un titolo nella nostra libreria molto importante, è un titolo che comunque ancora oggi riscuote parecchio interesse, come tutto il lavoro di Jodorowsky, sia nel cinema che per esempio nei fumetti, con la bellissima saga dell'Incal disegnata da Mebius. Per cui abbiamo pensato che a 30 anni effettivamente potesse essere l'occasione giusta per ritirare fuori questo titolo, chiaramente anche in base al restauro che è stato fatto, cioè siamo molto soddisfatti, un bel restauro, il film devo dire così viene in qualche modo anche un po' rinnovato, quindi sono stati una serie di elementi, ma principalmente il titolo. Abbiamo anche visto come è andato per esempio Psicomagia ultimamente, il nuovo film di Jodorowsky al cinema, è andato molto bene, per cui anche questo ci fa capire come l'interesse intorno a questo regista sia ancora alto. Sì, tra l'altro all'epoca risollevò in qualche modo la fama di Jodorowsky, che era noto dai tempi della Montagna Sacra, insomma a molti anni di distanza. Sì, diciamo che la filmografia di Jodorowsky non è che sia piena di tantissimi film, lui ha fatto non tantissimi film, ne ha fatti pochi, tutti molto importanti, però appunto citati La Montagna Sacra, che è comunque un film che l'ha reso forse celebre, ma anche Il Topo era un film assolutamente sì, molto interessante, come anche Il ladro e l'arcobaleno con Omar Sharif negli anni 90. Devo dire, ne ha fatti pochi, tutti molto belli, e sicuramente Santa Sangre è una tappa importante però per il regista, assolutamente. Santa Sangre di Alejandro Jodorowsky al cinema da lunedì 25 novembre con Videa. Un saluto e un ringraziamento a Federico Mancini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, grazie a voi. Ciao Federico, grazie. Con Piero Cannizzaro, regista del documentario Storie d'Africa, che sarà a Roma allo Spazio Apollo 11 il 25 novembre e all'Officina Pasolini il 26 novembre. Piero, ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno. Ci racconti questo lavoro? L'idea mi è venuta parlando con diciamo il gruppo di Cinema Arena. Cinema Arena è uno schermo itinerante della cooperazione italiana che realizza campagne di informazione su tematiche varie, sociali, non lo so, a suo tempo c'è stato l'Ebola, l'AIDS, ma in tutto il mondo. Quest'anno loro organizzavano questa campagna, quest'anno, diciamo fine 2018-2019, hanno organizzato una campagna in Africa sul tema delle emigrazioni irregolari. Bene, mi hanno chiesto un progetto e io ho detto, mi sembrava male andare a incontrare le persone che hanno, diciamo, tentato l'avventura. In realtà io non sapevo quando sono partito, perché io sì, ho girato in Africa, ma non nei posti dove, cioè io ho fatto un mese in Senegal, un mese in Costa d'Avorio e un mese in Guinea, giorno più, giorno meno. E quindi non sapevo cosa avrei trovato. Comunque sapevo che io volevo andare a trovare queste persone che potenzialmente potevano partire, insomma. E comunque era l'idea, questo è importante, virgolettato mio, scherzo un po', ma volevo dare un volto a queste persone, dare un'identità, perché le vediamo continuamente e soprattutto, non solo, ma soprattutto nei barconi, con aria disperata, giustamente disperata, affranta, sofferente, ma sempre in mezzo a tante persone, come se fossero proprio un magma più che delle persone. Noi siamo abituati a vedere il totale, io volevo vedere il primo piano, se vogliamo usare questa metafora filmica, che poi non è una metafora perché in realtà io sono stato proprio sopra i volti delle persone, ma perché volevo proprio entrare un po', diciamo, la mia caratteristica, mi piace un po' entrare nell'anima delle persone, un po' come avevo fatto con Ossigeno, col protagonista Agrippino Costa, insomma, magari qui non sono stato così estremo nel linguaggio, però mi interessava dare un volto e un'identità a queste persone, che poi ho scoperto, ma non ci voleva molto, sono persone come noi vuol dire con delle gioie, delle sofferenze, con degli affetti, con delle credenze, con, ovviamente in un contesto africano e di villaggio africano. Ecco. Quanti sono stati i tuoi interlocutori? Comunque andavo, io chiacchieravo, parlavo sia con il portiere dell'albergo che con l'autista, che con il tassista, che con chi incontravo sotto, insomma, mi viene da dire sotto casa, come faccio di solito, le informazioni erano multiple. Dopodiché ne ho filmate anche lì abbastanza, 30, 40, almeno 20 per stato, diciamo. Poi però ho fatto una grande scelta e la scelta è stata di tagliare molto, perché molte storie obiettivamente come dire si ripetevano, mi è piaciuto molto tagliare certe cose, però è anche vero che io vengo dalla radio, ho imparato a tagliare e quando sono al montaggio non è più il mio girato, cerco proprio di estraniarmi e di vedere come funziona. E io considero sempre il documentario, il film, cosa che devi, anche se parli delle cose più tragiche, come in questo caso si parla anche di esperienze molto forti, però devi avere sempre un climax, cioè tu lo fai vedere perché le persone in qualche modo, in positivo o in negativo, si devono coinvolgere e possibilmente non guardare l'orologio. Quindi ho voluto fare proprio un po' un flusso e ho tagliato molto. Se proprio devo dirlo, internostramente, forse adesso visto che il film funziona, perché abbiamo fatto la presentazione a casa del cinema, la Venezia-Roma al Farnese, visto che c'è molta attenzione, prende molto, forse adesso c'ho un po', virgolette, mi viene da dire il rimpianto di non avere messo forse quei 10 minuti in più che sicuramente avevo, però vabbè, insomma, è sempre così, quando finisci un film pensi sempre, ah, potevo farlo così, se lo facevo più lungo, insomma, comunque è così. Che impressioni ne hai ricavato? Un bel insegnamento, cioè che ho incontrato, come mi ha detto e ha scritto Henry De Luca vedendo il film, persone che hanno un grande coraggio e non trasmettono, diciamo, virgolette, depressione, cioè, ma forza di continuare. Io penso che quello che ho imparato, se vogliamo usare un tag come si usa oggi, è la parola ricominciare, cioè queste persone dopo disavventure inaudite, tipo una di queste ha cercato 2 volte di arrivare in Italia, poi la barca affondata nel Mediterraneo, dopo la Tunisia, ha ritentato dopo mesi, però in questi mesi ha dovuto cercare i soldi per ripartire ed era con la moglie e col figlio, e poi dopo quando li hanno ripresi i libici e li hanno messi nelle prigioni e lì gli hanno violentato la moglie davanti ai suoi occhi, hanno proprio preso la moglie che stava dall'altra parte con le donne, l'hanno portata davanti a lui e davanti al figlio l'hanno violentata. Ecco, dopo queste esperienze, cioè, uno di noi mi viene da dire, cioè, ti ammazza, insomma, no? Invece loro ha ritrovato la forza per uscire, farsi aiutare, lavorare e poi tornare. A quel punto ho detto basta, no, torno a casa mia, in Costa d'Avorio, esattamente a Carugò, che è nel nord della Costa d'Avorio. E lì si è messo e ha ricominciato, grazie allo IEM. Questo documentario è stato finanziato dalla cooperazione sviluppo e in collaborazione con lo IEM, anche se poi, quando una volta che ero là, io mi rendevo indipendente, cioè prendevo il mototaxi, uscivo a piedi, uscivo con i passaggi, sono le informazioni che avevo, e di giorno andavo nei villaggi a incontrare queste persone. Ecco, quindi, ritornando alla tua domanda, l'impressione è che queste persone hanno veramente una forza e una volontà incredibile, che se fosse orientata e diretta in operazioni virtuose, se loro avessero la possibilità di gestire, che ne so, piccole aziende, piccole cooperative, cosa che qualcuno sta facendo, ecco, secondo me, come si dice, non so se si dice a Milano, darebbero la birra a un sacco di persone, perché ho trovato che hanno veramente una forza incredibile, insomma, sì. Vabbè, poi dimenticavo che tra le storie, come dico sempre, io non faccio il giornalista, anche se nella parte di ricerca c'è una parte di giornalismo che devi mettere in atto, poi però quello che mi interessa è il linguaggio di un film, così come Ossigeno era tutto abbastanza storto l'immagine perché rappresentava movimento, inquietudine, perché dovevo star fermo. Qui invece, insomma, voglio dire che molte scelte, molte cose vengono scartate proprio per il motivo che cerco sempre quelle persone che poi davanti alla telecamera hanno un rapporto, mi viene da dire, positivo, insomma, no? Perché ci sono delle persone che magari hanno una bellissima storia, che per un giornalista, un inviato, andrebbe benissimo, perché loro devono solo scrivere quello che ha detto. Io devo anche pensare che c'è un linguaggio cinematografico e queste persone in qualche modo, virgolette, devono, oltre a essere brave, avere un rapporto con la propria storia, avere una bella storia, devono anche avere un rapporto con la telecamera in qualche modo, però fa parte del mio lavoro e va bene così. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul tuo documentario? Lo vediamo lunedì al 25, tra l'altro con degli ottimi ospiti, con Giacomo Ravesi, il critico, con Fabio Castreotto, psicanalista che si è occupato di psicanalisi nel mondo dell'emigrazione, e Francesca De Masi, che è una sociologa che si è occupato proprio anche di Africa, di tratta delle nere. E poi invece il 26 l'Officina Pasolini, dopo il film ci sarà una chiacchierata con Simona Banchi, E poi ci sarà anche invece il 10 di dicembre, sarò a Parigi alla Maison d'Italie, dove lì ci saranno trovato tre bravissime giornaliste francesi, due delle quali sono africane, e poi stiamo preparando altre proiezioni. Sta partendo adesso tutto il mondo della distribuzione. Ho visto che c'è la pagina Facebook Storie d'Africa. Ah sì, certo, pagina Facebook, adesso sto mettendo un po' sui social, adesso metterò su Instagram questi documentari, tu sai bene, hanno un percorso un po' in mondi, una volta si diceva off, no? Però non per questo, anzi, secondo me è importante perché c'è un pubblico molto attento, come l'Apollo 11, come l'Officina Pasolini, insomma, o come a Milano la Cineteca, insomma, ecco, vedo che avrà una distribuzione in questo senso. E poi comunque, per esempio, mi hanno già invitato a Londra per l'anno 21, ci dovrà ancora stabilire la data, però vedo insomma che c'è movimento, mi sembra anche un segnale. Venerdì andrà in onda la puntata di Cinematoforo di Marzullo, che di solito si occupa anche di cose, no, forse anche più leggere, invece sei incuriosito, questo l'ho trovato un segno che in qualche modo ha centrato un po' il tema, ecco. Scusa se mi dilungo, ma la radio ufficiale, come se fosse Radio 3, però dell'Australia, mi hanno chiamato, ho fatto l'intervista ieri, proprio come la sto facendo con te, bella, tranquilla, dall'Australia, perché ho chiesto poi, ma come mai, chi siete? No, siamo la televisione ufficiale di Stato, l'australiana, che trasmettono in diverse lingue, e c'era parte italiana, ho detto, ma vi interessa questo tema? No, perché noi siamo molto seguiti dagli italiani, un tema che tiene. Ecco, ho dato questi esempi per dire che è un tema che addirittura dall'Australia sono interessati, insomma, ovviamente Parigi, ovviamente Londra. Parlo di questo perché mi piace che il lavoro ci abbia un respiro anche internazionale, insomma, e non escluso che poi prossimamente lo proietteranno, questo qui se ne dovrà occupare la cooperazione, l'OIM, in Africa, proprio nei paesi dove è stato girato. Quindi lo vedo che c'ha un respiro anche internazionale, questo mi piace. Storie d'Africa di Piero Cannizzaro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Piero. Viva il lupo, grazie a voi, buona giornata. Con Fabrizio Ferrari, direttore artistico della 18ª edizione del Rome Independent Film Festival a Roma, Nuovo Cinema Aquila, dal 15 al 22 novembre 2019. Fabrizio, ben trovato. Ciao, ben trovati a tutti. Descriviamolo, questo festival, per chi ci ascolta e non lo conoscesse. Insomma, siamo ormai alla 18ª edizione, è un festival di cinema internazionale che si rivolge a film indipendenti, quindi film che non hanno ancora avuto una distribuzione, e in particolare per quanto riguarda i lungometraggi selezioniamo solo opere prime e seconde, e poi ci sono ben 10 sezioni, tra cui, ecco, i documentari italiani e internazionali, cortometraggi, corsi di animazione, corsi dalle scuole di cinema, quindi in totale abbiamo quest'anno circa 100 film in concorso. Come saranno strutturate le giornate? Dunque abbiamo 7 giorni di proiezioni in 2 sale, a Cinemacula, come hai ben detto, e in genere mettiamo in una sezione lungometraggi e documentari la sera, e il pomeriggio alcuni dei documentari con i cortometraggi. Tanti sono gli ospiti stranieri che saranno a Roma per questa settimana a presentare le loro opere, è un programma molto fitto, dalle 4 diciamo a mezzanotte, con anche degli incontri con i registi, masterclass con Stefano Rasef domenica alle 18 sulla musica e temi le colonne sonore per i film, invece lunedì avremo Andrea Maguolo, Davide Donatello per Cidorobò, che alle 18 anche lui presenterà la sua masterclass sul montaggio. Rispetto ai paesi di provenienza, quali sono le realtà più vivaci? Quest'anno abbiamo selezionato diversi film dal Sud America, poi film che abbiamo anche trovato in altri festival molto importanti come Berlino, Sundance o Cannes. Però ecco, diciamo che penso che il Sud America faccia un po' da padrone, con l'Argentina, la Colombia, Costa Rica. Abbiamo per esempio questo film che presentiamo martedì 19, dove abbiamo dedicato una giornata alla tematica LGBT, chiamandola Love and Pride Day, e qui abbiamo del regista Jairo Bustamante, che è stato tra l'altro un allievo del Centro Sperimentale di Cinema qui a Roma, della Scuola Nazionale. È una coproduzione con il Guatemala, la Francia e il Lussemburgo, è un film che si intitola Tremors, un film molto forte, ecco, che ha come tema proprio la LGBT, e noi martedì 19 celebriamo questa giornata dalle 4 a mezzanotte con circa 4 documentari, 2 cortometraggi e a finire alle 22 il lungometraggio di Bustamante dalla Guatemala. Ecco, ci hai parlato di questa tematica, quali sono gli argomenti più ricorrenti in generale? Ma noi cerchiamo di dare un po' opere che variano un po' dalla commedia al dramma, all'ambiente, all'ecologia, al verde, quindi anche tanta musica. Quindi ecco, se vediamo sul sito, abbiamo inserito già tutto il programma con le schede tecniche dei film, le sinossi, i cast, i trailers, le biografie dei registi. Vediamo che variano veramente da, come dicevo, commedie. Abbiamo anche dei documentari su biografie di grandi autori, come ad esempio Anita Ekberg, oppure abbiamo un documentario su Dave Grusin e Peter Lindbergh, che è il famoso fotografo che ci ha lasciato lo scorso 3 settembre, il fotografo delle modelle. Infatti qui in questo documentario ci saranno interviste a Naomi Campbell e Schiffer e tutte le più belle modelle. Lui era il fotografo per eccellenza, insomma è un bellissimo documentario, naturalmente con i sottotitoli in italiano. In chiusura ci dai tutti i riferimenti per seguire il programma? Sì, naturalmente sul sito riff.it, ma stiamo anche aggiornando anche su Facebook Riff Awards, Roma Independent Film Festival, con le foto, i trailer, però diciamo sul sito abbiamo inserito un po' tutto e troviamo anche gli orari e tutte le schede dei singoli film. Oltre a questo volevo aggiungere anche 2 focus molto importanti, uno sulle animazioni in collaborazione con il Festival Cortours spagnolo di Valencia, e poi un focus sull'Ucraina con 4 cortometraggi e 2 lungometraggi che presenteremo già da venerdì 15 alle ore 18 al Cinema Aquila. 18ª edizione del Roma Independent Film Festival al nuovo Cinema Aquila dal 15 al 22 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Ferrari. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, un saluto, grazie a voi, ciao. Con Cristina Piccino del Filmmaker Festival 2019 a Milano dal 15 al 24 novembre. Cristina, ben trovata. Salve, buongiorno a tutti voi, grazie. Per chi non lo conoscesse, raccontiamo cos'è il Filmmaker. Filmmaker è un festival che si tiene ormai da quasi 40 anni, l'anno prossimo festeggeremo i primi 40 anni, ed è un festival nato diciamo sul cinema documentario, ma soprattutto di ricerca, ed è questa capacità di andare a scovare nelle aree più strane, eccentriche e meno formattate del cinema che lo caratterizza fin dalla nascita. E difatti a Filmmaker sono passati dei nomi che vanno da Ulrich Seidel a Frederick Wiseman, da Riti Panna e Roll Morris, che con il tempo sono diventati degli autentici classici, mentre appunto quando Filmmaker li ha scoperti e portati per la prima volta in Italia erano dei nuovi autori. Questo ha fatto sì che nel tempo, negli anni, il festival venisse un po' un punto di riferimento per il cinema indipendente, appunto per quel cinema di ricerca che ne fa l'identità più riconoscibile. L'edizione di quest'anno di quanti lavori si compone? L'edizione di quest'anno presenterà 99 titoli, di cui oltre 30 in anteprima mondiale, e 3 in anteprima europea e 26 in anteprima italiana, suddivisi fra le diverse sezioni che sono concorso internazionale, le prospettive dedicate ai giovani filmmaker italiani sotto i 35 anni, il fuori concorso, il filmmaker moderns, che sono quegli autori definiti altrove classici ma che a noi piace chiamare moderns, il fuori formato in cui ogni anno si mette a fuoco una parte di quel cinema più underground e sperimentale, e quest'anno ritroviamo come ospite particolare Alain Cavalier, che era già stato da noi 2 anni fa, che ha composto una sorta di autoritratto attraverso dei suoi film, a partire dall'ultimo film Être vivant et le savoir, che sarà presentato in anteprima italiana e dopo il Festival di Cannes del 2019, ha aggiunto 3 altri film, Irène, La rencontre e Martin et Léa, attraverso i quali compone una sorta appunto di autoritratto alla prima persona con i suoi film, che sono 3 storie d'amore, 3 storie di relazioni, di coppia, di filmare del cinema come idea di mantenere vivi e vitali le immagini delle persone e dei sentimenti. Ed infine abbiamo un progetto che si chiama Walking Cinema, con quest'idea di un cinema in continuo movimento, in continuo attraversamento, che non è soltanto metaforica ma vuole essere anche fisica. Difatti apriamo quest'anno con il nuovo film di Werner Herzog, Nomad in the Footsteps of Bruce Chatwin, che uscirà poi nelle sale italiane nel 2020 con Wanted e Feltrinelli Real Cinema, in cui Herzog, ripercorrendo i luoghi di Chatwin e la loro amicizia che era molto forte, mette in gioco se stesso, il proprio desiderio di fare cinema, che è quello appunto di arrivare sempre in zone remote, di mettersi alla prova fisicamente, di camminare, perché come dice all'inizio del film, il mondo si rivela a chi lo percorre a piedi. In chiusura volevo aggiungere, sì, abbiamo il parto d'oro all'ultimo festival di Locarno, Vitalina Varela di Pedro Costa. Nel concorso internazionale ci sono 9 film, abbiamo molti autori e autrici, tra cui che verranno a Milano, tra cui Lech Kowalski, che presenta il suo nuovo film On va tu a Pepe, che è un tema molto attuale perché racconta l'occupazione della fabbrica di operai francesi della GMS, che costruiscono la loro battaglia minacciando di far saltare tutta la fabbrica se questa viene venduta e dismessa, e quindi il racconto di questa lotta diventa un po' un racconto della nostra contemporaneità, che in questi giorni tra l'altro è ancora più attuale se lo colleghiamo alle vicende italiane dell'Ilva, di quanto sta appunto accadendo qui da noi. Kowalski sarà a Milano e con lui arriverà anche uno degli operai protagonisti del film. Abbiamo in anteprima italiana il nuovo film di Danilo Monte, Nel mondo. Danilo Monte sarà qui con noi, un film autobiografico, la prima persona. Il film dei Zapruder, che è un collettivo teatrale e performativo, è un film anche questo in anteprima mondiale, e si chiama Zeus Machine, l'invincibile, e anche i Zapruder saranno qui con noi. Verrà la regista di Present Perfect, un film cinese su live streaming, su Shengse, che ha vinto il Tiger Award all'ultimo festival di Rotterdam, e racconta appunto il mondo dei live streaming cinesi che sono stati molto vietati e perseguitati dal governo cinese, che ha cercato continuamente di chiuderli, 3 esistenze attraverso il live stream screening. Tra i nostri ospiti ci sarà anche Abbas Fadel, con un film che si chiama Bitter Bread, anche questo del concorso internazionale, in cui racconta la sopravvivenza quotidiana in un campo profughi dei rifugiati siriani in Libano, lo stesso Kowalski di cui ho già detto, e abbiamo un film molto bello, un film dramatique realizzato da Eric Baudelaire, un regista francese molto premiato anche con il Prix de Luc, che ha girato 4 anni con gli allievi di un liceo della periferia parigina, e avremo con noi uno degli allievi protagonisti di questo esperimento. Tutti i filmmaker italiani saranno con noi, sarà con noi Marco Martinelli delle Albe Teatro col suo nuovo film girato a Nairobi, nella bidonville di Kibera, che infatti si chiama The Sky Over Kibera, e tanti altri. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti per saperne di più sulla programmazione? Per tutte le informazioni è www.filmmakerfest.com, Facebook Filmmaker Festival, Twitter Filmmaker Fest, Instagram Filmmaker Fest. 39esima edizione, giusto? 39esima edizione. Ok. A Milano dal 15 al 24 novembre 2019, un saluto e un ringraziamento a Cristina Piccino. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie a voi e a presto. Con Ginella Vocca, presidente e fondatore della 25esima edizione del Mad Film Festival, il cinema del Mediterraneo a Roma, dall'8 al 21 novembre 2019. Ginella, ben trovata. Ben ritrovati. Per chi ci ascolta e non lo conoscesse, raccontiamo cos'è il Mad Film. Il Mad Film Festival è un festival internazionale di cinema che si tiene da ben 25 anni a Roma, infatti quest'anno festeggiamo la 25esima edizione. È un festival dedicato alle culture dell'area mediterranea, per cui cinema tunisino, marocchino, egiziano, cinema dei Balcani, ma anche tanto cinema europeo, perché adesso il lessico comune crea degli strani fraintendimenti, e cioè il Mediterraneo è tanto tanto europeo, per cui quello che cerchiamo di fare è cercare di tenere aperti, noi li chiamiamo corridoi umanistici, attraverso cui si mettono in contatto sponda a sponda tutte le sponde culturali del Mediterraneo. Abbiamo cercato di tenere sempre vivo, cosa che faremo anche quest'anno e speriamo di poter fare nel futuro, inshallah, come dicono i nostri amici, e speriamo di poterlo fare nel futuro, e cioè di non smettere mai di incontrarci e non smettere mai di dare visibilità a tutte le culture dell'area euro-mediterranea. Come si caratterizza questa edizione? È naturalmente illuminata da questa 25esimo compleanno e sicuramente è un richiamo a dei valori generali, è un richiamo alla cultura del bello, alla cultura del giusto, dell'equo, del reciproco, del diverso e dell'accolto. Ecco, questo. Il Mad Film Festival, come dicevo prima, è un canale umanistico, è un corridoio umanistico, annette e connette visioni diverse, ascolta e restituisce il riso, il pianto di tante lingue diverse, parla a tutti e ascolta tutti, vuole farsi capire e capire tutti. Questo è un po' lo spirito di questa 25esima edizione, cioè mettere a fuoco l'importanza e mettere al centro della nostra attenzione la cultura del Mediterraneo. Parliamo di cinema, quindi parliamo di una forma d'arte, è uno strumento particolarmente forte nell'aiuto della comprensione reciproca, perché la visione di un film vale migliaia di convegni, decine di libri, per cui è uno strumento potentissimo per mettere in relazione culture diverse. Quante opere in quali luoghi? Ah, le opere sono tantissime, quest'anno abbiamo esagerato, non riusciamo a contenere questo bellissimo mostro che è il Mad Film Festival. Sono 96 film per 36 paesi in diversi luoghi della città, al Cinema Savoy per cominciare dall'8 al 15, poi al Cinema Nuovo Aquila nel fine settimana, quindi 16 e 17, 19 e 20 all'Apollo 11 e presentazione di un libro molto bello alla Biblioteca Mameli il 21. Frattanto al Museo Macro ci saranno altri eventi collaterali a cui tengo moltissimo, appunto ancora letture dal Mediterraneo in collaborazione con Più Culture e in Audi Editore e i Mad Meetings, perché al di là di tutta la premessa fondamentale che ho fatto, perché le premesse teoriche sono la base di qualsiasi costruzione, di qualsiasi progettualità, abbiamo i Mad Meetings che sono volti a facilitare le relazioni e le coproduzioni tra i paesi delle due sponde. In particolare Mad Film è stato capace, attraverso un lungo lavoro di tessitura, di scambio, è stato capace di creare le premesse affinché i due ministeri italiano e tunisino arrivassero alla creazione di un fondo di sviluppo. Per cui per la prima volta l'Italia ha siglato un accordo per un fondo di sviluppo che si rinnova anche quest'anno tra Italia e Tunisia, tra i ministeri della cultura italiano e tunisino. È prevista la presenza di autori e autrici? Assolutamente sì, saranno presenti praticamente tutti i registi, tutti o quasi i registi del concorso ufficiale, ma avremo poi degli spazi molto belli nell'ambito della sezione Perle. Avremo una masterclass con Pietro Marcello, Nourine Bouzid, che è in concorso per la Tunisia, e il piacere di avere con noi a presentare il suo film Mario Martone. C'è tantissimo, quest'anno c'è veramente tantissimo. Una parola sui film Lux. In collaborazione con l'Ufficio d'Italia del Parlamento Europeo realizzeremo anche quest'anno un incontro col cinema europeo di qualità, in particolare con il premio Lux, evento che giunge alla sua 10ª edizione complessivamente e all'8ª qui al Mad Film Festival, e cioè presenteremo i 3 film finalisti di questo premio importantissimo che viene conferito a film di produzione europea selezionati da una giuria veramente speciale che è il Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo, e cioè loro vedranno questi 3 film e decreteranno il vincitore. Il premio Lux nell'ambito del Mad Film Festival è un grandissimo onore per noi. In Italia si fa questo evento, si tiene a Venezia, alle giornate degli autori, e a Roma, al Mad Film Festival. Noi siamo contentissimi, orgogliosissimi. Volevo dirti un'altra cosa. Sì. Quest'anno il premio Coinè sarà conferito alla comunità di Sant'Egidio e alla Federazione delle Chiese Evangeliche. Perché? Perché grazie alla forte spinta del dialogo interreligioso, la comunità di Sant'Egidio e la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia hanno dato vita alla nascita dei corridoi umanitari che portano in salvo legalmente, dunque senza rischi per l'incolumità fisica, uomini, donne, bambini in fuga da dittature, guerre e tutto quello e carestie. Il premio Coinè quindi è un omaggio doveroso a chi gestisce corridoi umanitari da parte del Mad Film Festival, che da 25 anni per l'appunto costruisce corridoi umanistici. Potrete trovare il programma completo sul sito del festival www.madfilmfestival.org. Naturalmente la pagina Facebook è vivissima e è piena di riferimenti ai contenuti, e vi aspettiamo tutti a partire dall'8 prossimo 21, cioè dopodomani, al 21 di novembre. Mad Film Festival, 25esima edizione, il cinema del Mediterraneo a Roma, dall'8 al 21 novembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al presidente fondatore Ginella Bocca. Un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto, Ginella. Grazie, a presto e venite al cinema a vedere tante cose bellissime. Con il regista Thomas Torelli per parlare del suo nuovo progetto UAM TV. Thomas, ben trovato. Buongiorno a tutti, buongiorno Fede. Ce ne parli? Certamente, volentieri. L'idea è nata in questi anni in cui ho portato in giro i nostri documentari assolutamente indipendenti. Ed è nata perché comunque ho notato una grande separazione di intenti tra quello che la TV tradizionale racconta e quello che il pubblico vorrebbe ascoltare. Come tu e come tutto il pubblico, insomma, sa, gli ascoltatori sanno, la TV è un mezzo di controllo potentissimo, controllo delle informazioni, controllo del pensiero collettivo. E credo che oggi i media tradizionali in qualche modo siano creati per continuare a installare terrore, paura, ignoranza, eccetera, eccetera. Quindi creare un media che sia qualcosa di diverso, che possa raccontare anche le cose belle che succedono nel mondo, che possa raccontare dei documentari. Cioè, io faccio il documentarista da sempre, e uno dei più grandi problemi che fa il mio mestiere è trovare un modo per far vedere i propri film a un grosso pubblico. Perché se ci pensi, quasi il 90% dei documentari vengono prodotti non hanno distribuzione, questa è la follia. Quindi crea una piattaforma dove possano essere accolti documentari bellissimi che siano per i festival, un PC delle buone notizie, un canale di economia che però racconta l'economia come anche qualcosa di comprensibile che hai tutto, perché non c'è di finanza per l'economia reale, e di positivo, nel senso che siano gli imprenditori che fanno delle scelte etiche, che sconfiggono la stessa con i propri lavoratori, eccetera, eccetera. Raccontiamo esempi belli di economia e poi tante altre cose, musica e quant'altro. Ecco, come sarà strutturato il canale? Beh, sarà un po' una sorta di Netflix, quindi sarà tutto quanto via internet, il sito è www.wando.tv, lì ci sono canali tematici dove si può scegliere in maniera non demanda cosa vedere. Come funziona l'iscrizione? Si può utilizzare l'iscrizione o un pagamento annuo che costerà 69 euro, ovviamente c'è un prezzo basso, che sono 69, sono circa 5 euro e mezzo al mese, o se lo paghi insieme, o altrimenti per 50 avresti molto la portata di tutto, ma pensavo di tenersi più basso possibile, insomma. Progetti prossimi di UAM? Considera anche che UAM cerca di produrre dei progetti propri, e quindi adesso uscirà già tra due settimane una monografia di Erika Poli, una psicanalista di Milano, però che è veramente molto interessante. E quindi cercheremo anche di produrre documentari nostri indipendenti, perché oltre che di trovarne di bellissimi in giro per il mondo. Abbiamo già due sulla plastica, l'ordinamento, la montagna. Stiamo cercando di già partiamo con un mix su 30 film. Insomma, partiamo già abbastanza forti, pensando che stiamo totalmente quindi vuol dire che il buon Fabrizio andrei in direzione opposta e contraria. Dove andate a cercare per quanto riguarda i documentari e le notizie? Quali sono le fonti? I documentari stiamo cercando anche attraverso la collaborazione con il Corrosiva Film Festival, che è la nostra amica in comune moneta. Stiamo cercando di trovare attraverso i migliori festival d'Italia e d'Europa. I festival sono un po' il punto in cui spesso è possibile vedere bellissimi progetti. A me capiva tantissime volte di vedere documentari stupendi nei festival e poi perdersi nel nulla, perché poi una volta finito il festival non c'è luogo in cui riuscire a vedere queste cose. Quindi è bello che ci stanno questi festival, ma poi il limite diventa che se un festival sta a Pordenone o a Milano, io abito a Roma, mi diventa difficile riuscire a vedere questi film. E invece creare una piattaforma in cui è possibile ritrovare questi concetti, secondo me è culturalmente molto utile, perché poi se ci pensi l'intrattenimento non deve essere sempre e solo fino a se stesso, se non riesce a intrattenere però dando anche un'informazione che fa riflettere che da punti di vista diversi dai miei tradizionali, secondo me diventa anche socialmente utile. È nato su tua iniziativa? Hai già creato una rete per mettere su tutto? Sì, siamo già una bella squadra di persone che ci lavorano, programmatori, persone che gestiscono i vari settori di esprima, diciamo così, perché comunque c'è uno che sta insomma con i documentari, c'è un'altra persona che organizza le riprese dei progetti prodotti da noi, l'amministrazione ovviamente, i programmatori, insomma siamo già una bella squadra. Tutto è nato ovviamente in piccolo, ma stiamo crescendo, la TV è andata online ieri, per cui è neonata, speriamo comunque di crescere in fretta. È chiaro che in questa prima fase sopravviviamo con difficoltà, perché il progetto è ambizioso e i costi sono molti, ma insomma contiamo di crescere in fretta. Siamo un po' nati anche sulla scia di altri progetti simili che però esistono all'estero, in Italia non esisteva, e quindi insomma, abbiamo cercato di crearlo noi e contiamo di raggiungere almeno 10.000 abbonati l'ultimo anno a mezzo, e questi 10.000 abbonati sarebbero fatto modo la i riferimenti ce li hai dati. Thomas, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto per le novità. Grazie mille, grandissimo, è un grande piacere sentirti. Grazie mille, grazie a tutti. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.